GR24, il sole 24 ore. Nobel per la pace all'Unione Europea. Formigoni a Radio 24, riprendiamo la prospettiva del 2015. Sciopero della scuola in 90 città, in piazza studenti e insegnanti. Napolitano, legge elettorale, bene avvio in aula, serve governabilità. Buongiorno, il premio Nobel per la pace 2012 è stato attribuito all'Unione Europea. Ladies and gentlemen, good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. L'ambito premio è stato assegnato all'Unione Europea per il contributo all'avanzamento della pace e della riconciliazione della democrazia e dei diritti umani in Europa, si legge nel comunicato del premio. La notizia del Nobel ai 27 era cominciata a circolare in mattinata, anticipata dalla TV norvegese NRK. La decisione è stata presa all'unanimità dai 5 membri della Commissione. Il Nobel coincide con una delle fasi più critiche dell'Unione, messa a dura prova dalla crisi economica. Il primo a commentare la notizia è stato il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che si è detto onorato e toccato dal riconoscimento e su Twitter ha scritto: «L'Unione Europea è un progetto unico che ha sostituito la guerra con la pace, l'odio con la solidarietà». Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per un commento in diretta su questa notizia ci colleghiamo con Beda Romano. Buongiorno Beda. Sì, buongiorno. Evidentemente la notizia ha in parte colto di sorpresa le istituzioni europee. Qualche minuto dopo l'annuncio ufficiale, il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, ha fatto una breve dichiarazione alla stampa in cui ha spiegato che questo premio è un grande onore sia per le istituzioni europee che per i 500 milioni di cittadini dell'Unione che per gli Stati membri. Naturalmente c'è molta retorica nelle reazioni delle istituzioni europee, comprensibilmente. Molti commentatori noteranno però che questo premio giunge in un momento molto difficile per l'Unione e soprattutto per l'Unione monetaria, attanagliata ormai da 3 anni da una grave crisi debitoria. Il premio come tale si dice il riconoscimento degli ultimi 60 anni e della pace in Europa, molti probabilmente lo considereranno un incoraggiamento per il futuro. Grazie per il commento a Beda Romano. Noi attraversiamo l'oceano, andiamo negli Stati Uniti. Biden, Ryan, scontro durissimo. Sondaggi divisi, ma il vicepresidente convince. Da New York, Mario Platero. Dibattito Ryan-Biden, ci sono già i primi sondaggi a caldo, il più attendibile è quello della CNN, 48% a favore di Ryan, il candidato alla vicepresidenza repubblicano, il 44% a Biden, sostanzialmente un pareggio come era stata la nostra impressione. Altri sondaggi, quello della ABC ad esempio, dà il 50% addirittura a Biden e il 30% a Ryan, la CBS esattamente il contrario, il 50% a Ryan, il 30% a Biden, una conferma forse che le cose erano più equilibrate di quel che si potesse immaginare. A questo punto la palla è nel campo dei due candidati alla presidenza. La settimana prossima avranno il secondo scontro a Long Island, poco lontano da New York. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo l'accordo di ieri con la Lega riprendiamo la prospettiva del 2015, scadenza naturale della legislatura in Regione Lombardia. Lo ha detto il governatore Roberto Formigoni al microfono di Alessandro Milan e sull'arresto del quinto assessore lombardo Formigoni ha affermato: gente che non avevo voluto riconfermare in giunta, come non avrei voluto riconfermare Zambetti, perché appunto col tempo si conoscono meglio le persone. A lei non avrebbe voluto, cioè aveva pensato già un rimpasto? Cosa vuol dire non avrebbe voluto riconfermarlo? Nel 2010 non avrei voluto riconfermarlo, avrei voluto nel 2010, ho fatto un cambiamento rispetto alle giunte precedenti e non avrei voluto riconfermare Zambetti. Ma perché l'ha confermato? Cioè non li sceglie lei gli assessori? Ma sa, il presidente è eletto ma è anche supportato da partiti, quindi non siamo dei dittatori sudamericani che fanno quello che vogliono, giustamente c'è un ruolo dei partiti con i quali si discute, con i quali

La nuova manovra fiscale costerà almeno 500 euro a una famiglia italiana con un reddito superiore a 30.000 euro. E gli italiani non solo dovranno munirsi di calcolatrice per verificare come cambiano gli sconti fiscali, le deduzioni, le detrazioni, ma dovranno stare attenti fin da subito alla franchigia di 250 euro, cioè la possibilità di considerare le spese, anche quelle mediche, solo a partire da questa somma prevista dalla legge di stabilità per gli sconti fiscali sui redditi oltre il tetto di 15.000 euro, che si applicherà quasi a tutto campo, e cioè su quasi tutte le agevolazioni, e avrà efficacia fin dal 2012, cioè retroattiva. La stretta partirà quindi dalle prossime dichiarazioni dei redditi per l'anno scorso, e lo stesso capiterà per il tetto di 3.000 euro per le sole detrazioni. Sono queste le principali novità che emergono dalla bozza che il governo presenterà alle Camere lunedì prossimo, evidenziate da un'elaborazione del Sole 24 Ore. Un mix, questo, che porterà a ricalcolare a ribasso i vantaggi per il 730 unico, che potrebbero però essere compensati in molti casi dal taglio delle prime due aliquote IRPEF di un punto percentuale, l'auspicato taglio delle tasse. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene sulla legge elettorale. Considero positivo l'avvenuto superamento di una situazione che vedeva trascinarsi da tempo, senza risultato, discussioni tra le principali forze politiche. Considero positiva, cioè, la proposizione formale, nella sola sede appropriata, il Parlamento, di un concreto progetto di una nuova legge elettorale, ha detto Napolitano. Il rapporto debito-PIL nelle economie avanzate ha ormai raggiunto il livello più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo afferma Christine Lagarde, direttore generale dell'FMI, aprendo l'assemblea del fondo. Forse il più grande ostacolo alla crescita sarà il pesante debito pubblico nelle economie avanzate, stimato a circa il 110%. E ora l'aggiornamento con i mercati finanziari con Simone Spezia. A te, Simone. Buongiorno Marta e buongiorno agli ascoltatori. È una giornata che a Piazza Affari è piuttosto incerta, perché in mattinata le borse andavano bene, poi sono calate nettamente, intorno al mezzo punto percentuale di ribasso. Adesso il FTSE MIB cede lo 0,11%, il FTSE All Share lo 0,14%. Era atteso ed è arrivato da poco i dati di JP Morgan. Nel terzo trimestre ricavi più 6% e l'utile sale a 5,7 miliardi questa attesa ha generato appunto un lieve miglioramento per l'andamento delle borse. Per quanto riguarda i singoli titoli, Saipem cede il 5,23%, Impregilo l'1,74%, Pirelli l'1,07%, Fiat l'1,09%, positiva media che guadagna il 2,7%, A2A l'1,18%, la Banca Popolare Emilia Romagna l'1,28% e Finmeccanica l'1,10%. Il cambio vede l'euro a 1,29,71 contro dollaro, lo spread scende sotto i 350 punti, il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni sotto il 5%. È tutto. Grazie a Simone Spezia. È in corso in tutta Italia lo sciopero nazionale del mondo della scuola. In piazza migliaia di studenti e insegnanti. Per noi sta seguendo i cortei di Milano, Valeria De Rosa. Sì, buongiorno. Il corteo è arrivato al Pirellone intorno alle 11.30, una manifestazione cresciuta nel corso della mattinata. Tantissimi gli studenti arrivati da tutta la provincia, accanto a loro i docenti per lo sciopero indetto dalla FLC-CGL. I ragazzi hanno ribadito più volte nel corso della manifestazione di non voler riconoscere nessuna sponda politica. Oggi erano in piazza loro e i docenti per manifestare contro i tagli alla scuola pubblica, contro il concorso per i professori, contro l'aumento delle ore di lavoro e contro l'ingresso dei privati nelle scuole e la restrizione della partecipazione di studenti e genitori negli istituti scolastici. Qui a Milano l'arrivo è stato doppiamente simbolico, sia perché la regione è come sempre competente in materia scolastica e sia perché la regione Lombardia è in questi giorni al centro degli scandali, e quindi molte volte i ragazzi hanno ripetuto all'indirizzo di Formigoni: dimissioni, dimissioni. In questo momento ragazzi e docenti stanno defluendo, ma comunque sia il corteo e la manifestazione sono stati molto tranquilli, non ci sono stati scintille con le forze dell'ordine, che in questo momento stanno del tutto abbandonando la piazza. E da Piazza Duca d'Aosta a Milano è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. Di questo argomento parlerà Daniele Biacchessi alle 13.30 in Italia in Controluce. Oggi è la giornata in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. oltre 5 milioni di infortuni che hanno provocato quasi 200.000 invalidità permanenti e oltre 7.000 morti. Questo è il bilancio degli incidenti sul lavoro degli ultimi 5 anni, cifre impressionanti che sono state ricordate in occasione della giornata organizzata dall'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro per richiamare l'attenzione di tutti i cittadini su questa drammatica realtà sociale. Solo nel 2011 si contano 560.000 invalidi titolari di rendita per infortuni e 150.000 per malattie professionali, la popolazione di Palermo e Pordenone messe insieme. Le norme a tutela dei lavoratori, ha detto il ministro del welfare Fornero, ci sono, quello che manca è metterle in pratica. La legislazione italiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è all'avanguardia in Europa, ma il quadro legislativo è ancora lungi dall'essere interamente attuato. Ci sono ulteriori elementi che è possibile introdurre, modificare per migliorare l'effetto delle prestazioni. Il ministro ha poi ribadito l'impegno del governo a completare l'attuazione del testo unico sulla sicurezza entro fine legislatura. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proseguiamo con le altre notizie di questa edizione di GR24, intelligente, vivace e simpatico. Nel tritacarne della guerra tra i genitori per l'affidamento, così i giudici definiscono il bambino padovano del quale è stato stabilito l'allontanamento dalla madre. La vera vittima è il bambino. Con queste parole il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri commenta la vicenda della scuola di Cittadella nel Padovano, dove un bambino è stato prelevato con la forza dalla polizia su ordinanza dei giudici della Corte d'Appello di Venezia. Nel video, aggiunge il ministro, non c'è il pregresso, non c'è il contesto ed è parziale. Lasciamo che la magistratura e la polizia facciano la loro parte. A riguardo, il capo della polizia Manganelli ha avviato un'indagine interna per accertare eventuali comportamenti non conformi al codice disciplinare. Il presidente del Movimento per l'Infanzia e Legale della Madre, Andrea Coffari, fa sapere che denuncerà il consulente tecnico legale della Procura, Rubens De Lorenzo, e di avere già presentato ricorso presso la Corte di Cassazione e al Tribunale dei Minori di Venezia contro il provvedimento dei giudici. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 27.000 voli ogni giorno, ma i cieli del continente restano ancora troppo poco efficienti. 440 aeroporti con una media di oltre 1.100 voli l'ora. L'Europa dei trasporti civili è una potenza, ma proprio come nella politica è divisa e ne paga lo scotto. La frammentazione di uno spazio aereo che riguarda 27 nazioni, ma che è diviso in 650 settori e gestito da 60 centri di controllo, impone rotte non lineari con un aumento medio di 42 km a volo e costi aggiuntivi da 5 miliardi di euro. Per questo, tutti e 27 gli stati dell'UE rischiano una pesante procedura di infrazione dal commissario europeo ai trasporti Siim Kallas per aver fatto fallire il cielo unico, la semplificazione dello spazio aereo che avrebbe dovuto avvicinarci al sistema americano, dove l'efficienza è doppia rispetto all'UE. In condizioni economiche normali è previsto un aumento del traffico del 5% l'anno. Se non si prendono provvedimenti ora, scrive Kallas, si creerà una situazione di caos. Non solo in Europa, si dovrà respingere una larga parte della domanda potenziale, ma saremo anche esposti a ritardi, cancellazioni in misura senza precedenti. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Cultura e sviluppo, la scelta per salvare l'Italia, è il titolo del rapporto annuale di Federculture 2012 che viene presentato oggi a Montecitorio. Roberto Grossi, presidente di Federculture, al microfono di Adriana Fracchia. In questo momento in cui il Paese sta facendo la legge sulla stabilità, sta portando avanti dei decreti per lo sviluppo, noi, grazie anche alla sensibilità del Presidente della Camera, saranno presenti senatori, deputati, imprenditori, uomini di cultura, affrontiamo il tema quali devono essere i prossimi impegni del Parlamento, perché tutte queste nostre suggestioni, idee, slanci, se poi non si traducono in scelte finanziarie, in leggi, in vincoli, in prospettive, rimangono astratte, no? Ecco. Per questo io do una certa rilevanza all'appuntamento di oggi, perché viene fatto dentro il Parlamento. Noi chiediamo che in questo esatto momento in cui Monti sta definendo delle scelte importanti per il Paese, anche scelte gravi che fanno riferimento al malcostume e ai malaffari che sono emersi ancora una volta nell'ultimo mese nella politica, noi riproponiamo alcune norme che possano rilanciare la produttività dell'offerta culturale.